Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Radio Big World. Come state? Come avete passato queste vacanze di Natale? Ormai sono finite e si torna alla vita normale, con tutte le difficoltà di adattarsi al vecchio ritmo. Però io sono sempre qui e vi ho portato un nuovo monologo su cui scatenare le vostre riflessioni, anche se si tratta di un testo dell'Ottocento, di un teatro che può sembrare lontanissimo dalla vostra vita, ma in realtà non lo è così tanto, come abbiamo avuto modo di vedere anche nelle puntate scorse di questo programma. Devo ammettere che ultimamente sono un po' a corto di idee, o meglio, ho delle idee per il futuro legate a delle giornate che ci saranno in gennaio, febbraio, marzo, delle ricorrenze dedicate a un particolare tema. Però al momento non sapevo bene a che tema dedicarmi. Quindi ho deciso di ricollegarmi al ragionamento della puntata scorsa. Avevamo parlato di questa lettera scritta da un'innamorata al suo amato, ma non molto innamorato, a quanto pareva. E vi ho raccontato che secondo me quelle che possono fare veramente la differenza per quest'anno e renderlo degno di essere ricordato sono le persone di cui vi circondate. Vi avevo portato un monologo comico e avevo cercato di essere positiva perché era la prima puntata dell'anno. Oggi ritorniamo alle cose tragiche perché... Oh, sentite, sono molto più facili da trovare i monologhi tragici. Negli ultimi giorni, grazie ad eventi che non sto qui a raccontarvi, ho fatto delle riflessioni che si collegano bene con il tema dell'altra volta, cioè sulle persone negative che non vanno bene per noi e con cui decidiamo di stare lo stesso, finché poi non ci rendiamo conto che non è una situazione che fa il nostro bene e decidiamo finalmente di allontanarcene. Ho trovato un caso emblematico nella storia del teatro per rappresentare questo tipo di storia ed è la signorina Julie di August Strindberg. La storia si svolge nell'Ottocento in casa di un conte e la signorina Julie è appunto la figlia di questo conte, quindi una ragazza nobile. Una sera, ad un ballo, per la festa di San Giovanni, conosce Jean che è un servitore della sua casa e danzando lo provoca. Lui accoglie questo invito e, mostrando un'indole molto arrivista, la fa innamorare di lui, la convince a rubare dei soldi al padre e le propone addirittura di fuggire insieme. Alla fine Julie si rende conto di essere stata soltanto usata per la sua posizione sociale e si ribella ai piani di Jean. In questo monologo che ora vi farò ascoltare, dapprima Julie è spaventata e poi diventa sempre più sicura della sua decisione, anzi esprime tutto il suo odio per Jean che l'ha manipolata. No, non voglio andare ancora. Non posso. Devo vedere. Zitto, c'è una carrozza che arriva. Non pensi che non sopporto di vedere il sangue? Non mi creda tanto debole. Oh, quanto vorrei vederci il tuo sangue, il tuo cervello su questo ceppo, il tuo sesso, tutto quanto dentro questa pozza qua. Credo che ci potrei bere dal tuo cranio, bagnarmici i piedi nel tuo torace, mangiare il tuo cuore arrostito. Credi che io sia debole, tu? Credi che ti ami perché il frutto della mia vita desiderava il tuo seme? Pensa che voglia portarmi sotto il cuore la tua prole e nutrirla del mio sangue, partorire tuo figlio e prendere il tuo nome. Giusto? Com'è che ti chiami? Il tuo cognome io non l'ho mai saputo. A quanto ne so, non ne hai. Dovevo diventare la signora portineria o la madama immondezzaio. Tu, cane che porti il mio collare. Tu, lacchè con le mie iniziali sui bottoni. E dovrai dividerti con la mia cuoca, avere come rivale la mia serva? Oh, oh, oh. Credi che sia tanto vile da scappare? No, io resto, e venga pure la tempesta. Mio padre torna a casa, trova scassinato il suo cassettone, i suoi soldi spariti. Allora suona quel campanello lì, due volte, per il domestico, e fa venire la polizia. E io racconto tutto, tutto. Ah, sarà una gran cosa finirla. Come vi dico sempre, questi esempi sono decisamente esagerati rispetto a quello che succede nella nostra vita quotidiana. Non voglio assolutamente istigarvi all'omicidio e spero che nessuno di voi abbia avuto questa tentazione, anche se è stato tradito e ferito dall'amante. Però in queste parole così estreme di Julie possiamo ritrovare delle emozioni che abbiamo provato tutti noi, quando ci siamo resi conto che una persona in cui avevamo riposto fiducia in realtà non la meritava per nulla, non ci aveva trattato come meritavamo, e meritava anzi il nostro disprezzo. Credo che sia un tipo di situazione in cui cadono moltissime persone, quasi tutti, prima o poi. Alzi la mano chi si è trovato in questo tipo di situazione. Bene, non mi vedete, ma io ho la mano alzata perché anche a me è capitato di farmi trattare in un modo in cui non avrei dovuto farmi trattare. Avrei dovuto avere più rispetto per me stessa e farmi valere fin dall'inizio. Perché è importante essere gentili e rispettosi con le persone che abbiamo intorno. Ma è altrettanto importante anche avere rispetto per noi stessi. Poi a un certo punto io me ne sono resa conto, come spero anche tutti voi se vi è capitato qualcosa del genere, e sono stata decisamente arrabbiata. Arrabbiata con questa persona, ok, non al punto di Julie, ho reagito in modo molto più diplomatico e non legalmente perseguibile, ma soprattutto arrabbiata con me stessa, per aver permesso di essere trattata così. Anzi, per quanto mi riguarda, questa è la parte principale. Ancora non riesco completamente a perdonarmi per essere stata così stupida, per aver avuto così poco amor proprio da farmi trattare in quel modo. Poi per fortuna arriva il momento in cui ci si rende conto che questa persona non ci merita. Non è alla nostra altezza. Questa cosa è palese nel caso di Julie, nel ceto sociale, che al giorno d'oggi non c'entra più niente perché il valore della persona non è certo dato dalle ricchezze o dalla famiglia. Ma comunque possiamo vederla come una metafora perché ci sono oggettivamente delle persone con cui non è bene avere a che fare, che non aggiungono valore alla nostra vita. Anzi, lo tolgono. Io posso sperare per voi che non incontriate questo tipo di persone quest'anno, o se le avete incontrate, che ve ne liberiate il prima possibile. Perché avere dei buoni rapporti con gli altri è sicuramente importante, ma il primo rapporto che dobbiamo curare è quello con noi stessi. Amare noi stessi, trattarci bene per primi, altrimenti permetteremo anche agli altri di trattarci male. Non fate in modo che questo succeda, come io mi impegnerò a fare in modo che non succeda più. Insomma, sono finita anche questa volta a farvi la predica morale. Non era questa l'intenzione di partenza, però ve l'ho detto, sono un po' a corto di idee per nuovi argomenti, quindi se c'è qualcosa di cui vi piacerebbe che parlassi, ditemelo, lasciatemi un commento, mandatemi un messaggio su qualche social. Sono aperta a tutto. Ogni nuova idea sarà bene accetta. E mi farà anche piacere sapere che avete ascoltato queste puntate. Spero di essere riuscita ad interessarvi e vi do appuntamento tra una settimana, sempre qui su Radio Big World. Ciao a tutti!